Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Ciotti, fondatore di Libera, l'aveva buttata lì in occasione del premio Berzot, istituito dalle ACLI, che a Bologna era stato consegnato al CT Cesare Prandelli. Sarebbe bello che la nazionale di calcio andasse in Calabria. Detto, fatto. La FIGC e Prandelli hanno accettato la sfida e domenica, prima della partita amichevole contro l'Uruguay, gli azzurri si alleneranno su un terreno confiscato ad una cosca a Rizziconi, in provincia di Reggio Calabria, dove l'andrangheta la taglia a fette anche nell'aria. La presenza della nazionale a Rizziconi è una testimonianza di solidarietà nei confronti della popolazione calabrese e di impegno civile nella lotta alla criminalità organizzata. E queste frasi, che si leggono sul sito della Federazione Italiana Gioco Calcio, non devono essere considerate retoriche. Il 20 settembre il Tribunale di Reggio Calabria ha definitivamente confiscato due società di calcio che erano riconducibili alla cosca Pesce di Rosarno, la società dilettantistica Cittanova Interpiana e appunto il Rosarno. Il 22 febbraio la Guardia di Finanza era andata nelle sedi delle due società e contemporaneamente c'era stato un blitz anche nella sede del Comitato Regionale Calabria Lega Nazionale Dilettanti di Catanzaro per accertare l'eventuale influenza della cosca Pesce sul campionato di Serie D attraverso le due società sportive. Il presidente della società Cittanova Interpiana, Mimmo Varrà, dagli inquirenti è ritenuto il prestanome del boss Francesco Pelle, detto Ciccio Testoni. Ciccio il testone, ma più testone di lui, questa volta sono stati Don Ciotti e il CT della Nazionale. La speranza è che la partita della società civile della Piana di Gioia Tauro contro la criminalità non finisca quando i ragazzi di Prandelli usciranno dal campo di allenamento di Rizziconi. Grazie in studio a Luca Cremonese, in regia a Carmelo Lauricella.